Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Maggio 2010. Devo decidere dove vedere la finale di Champions. Devo scegliere dove vederla, con chi e come. Su Google Inter Club Indonesia e li trovo. Scrivo un post nel forum, mi risponde Mr. Bobo. L'appuntamento è per sabato 22 maggio al Rix Café a Jakarta Sud, vicino al distributore della Shell, a mezzanotte. Mi chiamo Luca Grazzini, ho 44 anni, vivo a Brescia, sono sposato e ho due splendidi bimbi. Quando ho raccontato a mia moglie che a Radio 24 avreste letto il mio racconto, mi ha risposto: ma come mai? Mi hai mandato solo tu. Questa è un po' la fiducia che hanno le mogli nei confronti dei propri mariti, per cui se una radio sceglie il racconto del marito da leggere, vabbè, l'avrai mandato solo tu, evidentemente. Magari poi ci facciamo passare anche la moglie di Luca, facciamo quattro chiacchiere con lei, se per caso lei è con lui. A lei e a tutte le donne all'ascolto è una sorta di avviso, disclaimer: non cambiate canale solo perché pensate che si parli di finali. Non è così, o meglio in parte è così, come al solito, come si parla di una cosa, ma poi si parla soprattutto di altro. Il racconto di Luca è arrivato, come molti racconti, credo prima della fine del 2011 o forse all'inizio del 2012, però parlava di una finale di Champions e quindi abbiamo aspettato fino ad oggi, che è il giorno prima della finale di Champions 2011-2012. Si giocherà domani sera, proprio a Monaco, la finale tra il Chelsea e il Bayern di Monaco, ma chi se ne frega, questo è semplicemente un modo per giustificare la scelta di oggi. La storia di oggi e la storia di Luca parla di un gruppo particolare di persone con cui lui ha visto quella finale, perché si trovava in Malesia per lavoro e non voleva vederla da sola e si è trovato l'Inter Club Malesia, ma il suo racconto è molto più divertente e più dettagliato di come ve la potrei raccontare io. Però quello di cui si parla oggi sono le formazioni ufficiali con cui vedete le partite importanti o gli avvenimenti sportivi importanti. Se siete degli appassionati di Olimpiadi, di sci, di sport invernali in genere, di calcio va bene o di tennis, e avete qualcuno con cui vedete quelle partite, 349-238-6666, oppure voi siete qui @radio24.it. Roberto sul profilo Facebook scrive: se è davvero importante la vedo da solo, portano tutti sfiga. Maurizio: io e mio suocero, questa è la formazione. Sandro: la formazione tipo per le partite del Sei Nazioni è mia moglie Enrica in poltrona alla mia destra, io sullo sgabello di fronte al televisore. Purtroppo Enrica non tifa Italia, e non si capisce come mai sua moglie non tifa Italia. Per il Tre Nazioni invece si aggiungono mio fratello e mio figlio, divano rispettivamente divano e poltrone residue. 349-238-6666, il profilo Facebook è Matteo Caccia, io sono qui. Il profilo Twitter invece, che è seguito dalla sempre valida Margherita Ina, che guarda lo schermo come se fosse un mostro, è probabilmente perché è su Twitter, ricordiamo, ha imparato a usare Twitter praticamente settimana scorsa grazie a Tiziano Bonini, ma il profilo è attivissimo ed è Voi Siete Qui Radio 24, se mettete lo trovate, o altrimenti VSQR24. Margherita, straordinaria, guarda proprio lo schermo come dire: oddio, adesso esplode, tipo cosa succede adesso? Devi aprirti un tuo profilo Twitter, Margherita, devi aprirti un tuo profilo Twitter, secondo me è più seguito di quello del programma. 349-238-6666. Ancora Il Gamba, già ma l'abbiamo già letto credo un messaggio di Il Gamba. Il Gamba, già il nome che ti dai è straordinario. Ogni volta che gioca l'Atalanta, al mio fianco c'è sempre il mio papà, e mi piace pensare anche il mio nonno materno, che la guarda da lassù. E poi ancora Federico: per anni a casa dell'amico Fabio, nell'ordine da destra verso sinistra, io sulla sedia del tavolo, Simone, Fabio e Paolo sul divano, il papà di Fabio sulla sedia da scrivania. Ma da quando Fabio fa venire anche la sua ragazza, lo abbiamo boicottato. Non pensiate che non sia una puntata da donne, solo perché di donne ce ne sono poche. È una puntata che parla di un avvenimento molto importante, semplicemente in concomitanza di una cosa che succede domani sera. 349-238-6666. Questa è la storia di Luca e avviene in Indonesia. Maggio 2010. Devo affrontare una situazione nuova per me. Devo decidere dove vedere la finale di Champions League. Lo so, la fanno ogni anno la finale, ma è la prima volta nella mia vita che la gioca anche l'Inter, la finale. A Madrid non ci andrò, non provo nemmeno a cercare il biglietto. E poi devo partire. La finale cade nel mezzo dei miei soliti 15 giorni fuori dall'Italia, quelli che devo per forza fare all'estero. Devo solo decidere dove vederla, con chi e come. Su Google provo Interclub Malesia. Niente. A Kuala Lumpur niente. Allora provo Interclub Indonesia. E lì li trovo. Trovo tante facce sorridenti, tutti con le maglie dell'Inter. Non capisco niente perché il sito è in indonesiano. Allora scrivo un post nel forum. Mi risponde Mr. Bobo. L'appuntamento è per sabato 22 maggio al Rix Café a Jakarta Sud, vicino al distributore della Shell, a mezzanotte. In quel periodo viaggiavo molto in Asia, in particolare passavo quasi 2 settimane al mese a Jakarta e a Kuala Lumpur. In realtà potevo scegliere ogni 15 giorni di andare prima da una parte e prima dall'altra. Arrivo dalla Malesia il sabato mattina e come se si vedesse il poliziotto all'aeroporto mi dice «Nerazzurri!» sorridendomi con tutti i denti che ha. In hotel cerco di dormire senza riuscirci. Alle 11 prendo un taxi, non ho ancora indosso la maglia dell'Inter. Un po' mi vergogno. Il posto è sulla tangenziale. A Jakarta tutto è sulla tangenziale. Jakarta è brutta, cupa, triste e sporca. Jakarta è nell'ascella del mondo. Jakarta è solo una caotica e puzzolente periferia di se stessa. Tutto è velato, soprattutto il cielo. Capisco che siamo arrivati perché comincio a vedere un sacco di gente vestita di nerazzurro. Il tassista mi chiede se davvero voglio scendere lì. Io non so cosa rispondere, pago e scendo. Tutti mi guardano stupiti perché sono l'unico non indonesiano e soprattutto l'unico che non ha ancora indosso una maglia dell'Inter. Le maglie ce le hanno tutti, ci sono tutti sulle maglie. C'è il capitano, c'è Cruz, Milito, Eto'o, vedo addirittura Van der Meyde, persino Quaresma. Mr. Bobo, il presidente dell'Inter Club Indonesia, sezione Jakarta, mi abbraccia. Mi presenta il direttivo del club e sua moglie. Ci sono centinaia di persone, fa caldissimo, il soffitto è basso. Questo è uno di quei posti che ogni tanto brucia da qualche parte del mondo e muoiono 800 persone. Ma vabbè. Mi portano al tavolo riservato per me, la bandiera a fare da tovaglia. Metto la maglia di Branca, quella della Fiorucci. Facciamo un'improbabile prova di gemellaggio tra gli Inter Club Jakarta e Verona Nuova. Foto, regalo il libro del centenario, 2 copie della Gazzetta della Coppa Italia e la maglia dell'Inter Club Verona. La serata si snoda tra premiazioni, spettacoli, balletti e uno strano, inquietante, crescente interesse per me. Tutti mi scattano foto, i bambini mi salutano. Intuisco con un misto di imbarazzo e preoccupazione che sta succedendo qualcosa. Mi sto trasformando nell'inviato ufficiale dell'Internazionale Football Club di Milano a Jakarta. La trasformazione si completa quando vengo chiamato sul palco per dire qualcosa al popolo nerazzurro e urlo al microfono il mio pronostico. 2-0 per noi. Io sono stato anche chiamato sul palco a dire qualcosa. Io allora ho intonato qualche coro da stadio, seguito da loro, ho fatto il mio pronostico per la finale. Poi a mezzanotte, anzi alle 2, c'è stata la partita che è finita bene, 2-0 per noi. Poi siamo partiti da lì in tantissimi, siamo stati in giro fino alle 7 di mattina a festeggiare. E poi, come si sa, finisce proprio 2-0 per noi. Ci pensa il principe a consacrarmi. Io abbraccio tutti, tutti mi abbracciano, mentre in sala i camaleonti dal 1984 cantano «Oh, oh, di nerazzurro il cielo si colora». E ancora foto, poi si parte. Sfrecciamo sulla tangenziale con centinaia di motorini e poche auto. Io sono in macchina con Dipa, sua moglie e suo cugino. Facciamo caroselli, abbiamo vinto tutto. Ci fermiamo alla rotonda vicino al Mandarin Hotel e blocchiamo il traffico che è poco, perché sono le 5 del mattino. Poi spunta il sole e andiamo davanti allo stadio per le foto e per le mie ultime deliranti dichiarazioni col megafono. Alle 7 finalmente sono in albergo e mi sento strano. Mi sento davvero un dirigente dell'Inter per acclamazione del grande popolo indonesiano. Viva l'Inter, viva la Repubblica d'Indonesia. Quante volte ho raccontato quel giorno lì, il 22 di maggio del 2010? Troppe. Decisamente troppe. E infatti non temete, non andate via, non lo rifaccio. Domani sera però si gioca una finale come quella, Una finale come se ne giocano tutti gli anni in questo periodo. Le due squadre più forti d'Europa si sfidano per decidere quale delle due sia realmente la migliore. Ora, con tutta probabilità, le due squadre che giocano una finale non sono sempre le migliori. E probabilmente non lo sono nemmeno il Chelsea o il Bayern di Monaco. Però sono state quelle più brave ad arrivare fino a qui, e questo è quello che conta. Ma chi se ne frega della finale di domani, perché non è di quella finale che voglio parlare oggi. Quello lo fanno già Carlo Genta e Gigi Garanzini, è molto meglio di me. E non voglio nemmeno parlare dell'ultima finale che ho visto vincere e giocare della mia squadra, la stessa che Luca ha visto per qualche oscuro motivo in un interclub di Giacarta. È perché leggendo la sua storia mi è venuta in mente la prima finale di Champions che ho visto, o che almeno mi ricordo di aver visto in vita mia. Avevo 10 anni, era il 1985 e si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Non la giocava la mia squadra, ma c'era comunque una squadra italiana, e questo contribuiva a eccitare gli animi di tutti i giornalisti della nazione e di tutti gli appassionati di calcio del mio paese. La partita era la finale, era Juventus-Liverpool. Per l'occasione, nel campo sportivo del mio paese, venne montato un tendone sotto il quale Peppino Zonca, presidente della AS Romentinese e mio lontano parente, portò il suo personale televisore da casa. Era uno di quei Brion Vega enormi, i primi grandi schermi da casa presenti sul mercato. Aveva un cassone grande e grosso da cui spuntava questo schermo gigante, come fosse una specie di divinità egizia. La società sportiva aveva prontato un baretto e tutte le sedie erano già occupate quando arrivai. Mio padre, interista e anti-juventino da sempre, si rifiutò di venirci, e allora io mi diedi appuntamento con gli amici dell'oratorio, che erano tutti bianconeri. Ecco, ammetto che se mai ci fu un momento della mia vita di tifoso, in cui ho seriamente rischiato di cambiare fede calcistica, fu quel periodo là. Quel periodo in cui la Juve vinceva tutto, andava in finale di Coppa dei Campioni e nelle sue file giocava uno dei più bei giocatori visti muoversi su un campo di calcio, Michel Platini. La festa durò fino al momento dell'accensione dello schermo, però. Inizialmente ci furono dei problemi con l'antenna e sulla TV appariva solo la solita schermata bianca e grigia che friggeva come una tempesta di neve. Fortunatamente però, tra il pubblico era presente Gianni Antenun. Gianni Antenun di mestiere faceva il rappresentante, solo che da ragazzo aveva fatto l'antennista e per questo si era meritato per tutto il resto della sua vita, credo ancora oggi, il soprannome di Antenun, cioè Antennone. Lui armeggiò un po' con l'antenna di fortuna che era piazzata in mezzo al campo sportivo e improvvisamente un grido di giubilo fece quasi esplodere il tendone. E fu quando le immagini apparvero nitide davanti a noi. Arrivavano da Bruxelles, da uno stadio che si chiamava Eisel e che doveva essere il palcoscenico della prima finale di Coppa dei Campioni che vedevo in TV. E invece fu il primo esempio di delirio collettivo di chi era là, di chi aveva fatto tutto quello e di chi aveva fatto giocare e poi trasmesso quella partita. Non ricordo bene cosa provai, forse a 10 anni non riesci a farti un'idea di cosa significhino 38 persone uccise per la follia di poche altre. Oggi però posso tentare di ricordare il sapore che sentii in bocca da quel giorno ogni volta che ho sentito parlare di Bruxelles, degli hooligan e di una finale di Coppa dei Campioni, che forse non è così male, che oggi si chiami Champions League. Matteo, finale Champions 98 ad Amsterdam, Juve-Real Madrid. Ho due biglietti omaggio in tribuna centrale. Uno lo do ad un mio amico. Lui entra e io no. Dopo il primo tornello l'ho regalato a una persona che non conoscevo e me lo chiedeva dall'esterno e la security mi ha cacciato fuori. Ad oggi non ho mai avuto il coraggio di dirlo a mia moglie dalla vergogna. Pasquale. Pasquale, questo messaggio è un po' fuori contesto, però l'ho dovuto leggere perché non ho capito. Cioè, tu avevi due biglietti omaggio, uno l'hai dato a un amico, eri già dentro e poi l'hai regalato a uno che era fuori. C'è chiaramente qualcosa che non... Cioè, mi sto perdendo qualcosa. Pasquale, ti prego, dimmi di più. 349-238-6666. Io però vorrei andare a Giacarta, vorrei tornare là con Luca. Luca, facciamo finta che tu in questo momento sei a Giacarta e mi spieghi che cosa succede con 800 persone in un locale di quelli che ogni tanto prendono fuoco in qualche parte del mondo. Pronto, Luca? Sì, sono qua. Ciao, come stai? Ciao, tutto bene. Senti, Mister Bobo, Mr. Bobo era il presidente dell'Interclub, giusto? Sì, sì. Ma si chiamava Bobo in onore di Bobo Vieri? Sì, sì, tutti hanno un soprannome. Cioè tutti hanno un soprannome legato a un giocatore legato dell'Inter. All'Inter, sì. Cioè, tutti quelli dell'Interclub indonesiano? Indonesiano, tutti, sì. Mi piace perché lo dici come se fosse una cosa normale, che ci sono dei pazzi che si danno dei nomi tipo Bobo, Branca, il capitano, roba del genere. Senti, esatto. senti, andiamo un attimo a tua moglie che ti dice, vabbè, se lo leggono è perché l'hai mandato solo tu il racconto. Sì, in realtà non mi ha detto solo quello, mi ha anche detto, prima quando gliel'ho detto mi ha detto, ah, ma è bene questo, che leggano un tuo racconto. È bene? Sì, non so. E che cosa può esserci di male, secondo tua moglie? So. Non lo so, poi quando le ho spiegato bene che cosa si trattava mi ha detto, beh, ma appunto pensava che l'avessimo dato solo io, visto che l'avevate scelto. Senti, ma cosa fa lei di mestiere? Mia moglie è medico. Ah, ok. E medico, che tipo di medico? Medico ospedaliero, okay. Immunologa, allergologo. Tu invece che cosa ci facevi, scusami, a Giacarta? Cosa ci facevo? In teoria ero, in quel momento lavoravo per un'azienda come area manager di proprio di quei due paesi, Malesia e Indonesia. E quindi vendevo macchine a società indonesiane e malesi. Ok, quindi eri lì per fare affari in sostanza. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma e tu sei abituato a vederla da solo la partita o a vederla in gruppo? Cioè non ce la facevi proprio a vedertela per i fatti tuoi quella partita lì? No, mi piace vederla in gruppo, mi piace molto vederla. E poi in realtà mi attirano situazioni come quelle. Ok, perché a un certo punto è chiaro che loro ti prendono, per, come dici tu, per un emissario dell'Inter a Giacarta, giusto? Sì, sì, non credo ufficialmente, però... E quindi sì, vengono a stringerti la mano, a farti foto? Sì, sì, sì. Cioè diventi un po' il personaggio della situazione? Esattamente. Senti, mi dici invece una delle cose deliranti che hai detto al megafono, oltre al pronostico che hai azzeccato, delle cose deliranti che hai detto al microfono o al megafono. Beh, davanti allo stadio? Sì, sia prima che dopo. Prima gli ho detto che appunto non avevo mai visto così tanti interisti insieme, nemmeno a San Siro, che poi avrei voluto far parte del loro club, e poi lo sono diventato parte del loro club, mi hanno dato le maglie e così via, e poi che avrei portato nel massimo del delirio fuori dallo stadio, avrei portato questi colori a San Siro, cosa che ho fatto, e nello sfortunato Inter-Napoli di quest'anno ho fatto tutto un servizio fotografico con la loro maglia a San Siro. Con la loro maglia indonesiana? Sì, sì. Senti, ma tu ci torni a Giacarta per lavoro? No, ho cambiato. Ah, hai cambiato lavoro. Zona. Però sono tornato di là a vedere un Inter-Cagliari una sera. Benissimo, e c'era sempre Mr. Bob e tutti gli altri? Sì, sì, sì. Ti ringrazio, guarda Luca, soprattutto per condividere questa forma di patologia con tutti noi e in qualche modo appoggiamo tua moglie. Grazie mille, buona giornata Luca, in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Matteo si dice Verola, non Verola, con l'accento sulla O. E va bene. Voi siete qui. E ci ha preso veramente in parola Luca quando chiediamo di raccontarci episodi realmente accaduti nella vostra vita, nel racconto che ci mandate, perché insieme al racconto ci ha mandato la fotografia, che fanno tutti, cosa che fanno tutti, ma la fotografia è lui all'Interclub Malesia, Interclub Indonesia, perdonatemi, insieme a due ragazzini con la maglia dell'Inter, c'è sito Inter dappertutto, loro sono di Giacarta, evidentemente, non so che facciano abbia esattamente, che faccia abbiano i giacartesi o giacartensi, però loro assomigliano a due che non possono avere la faccia di Giacarta. Lui è nel mezzo, tutti sorridono, sono abbracciati, e lui, questa è una roba per intenditori, indossa la maglia, come dice lui, di Branca, che è quella ancora della Umbro, con il collettino con un bottone solo. Questa è veramente per intenditori. Andate a vederla sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. A proposito di sito, di ebook, di scaricamenti di ebook, qualcuno mi ha scritto oggi l'ebook è al nono posto in classifica. Io ho subito detto, ma noi le classifiche non interessano, ci interessa solo fare delle cose belle. Mi scrive Glenda, siete al 19° posto tra i best seller gratuiti su Amazon. Non male, considerato che lì non è stato pubblicizzato il sito di Amazon per il prelievo, per lo scaricamento dell'ebook di Voi siete qua. Complimenti e grazie. C'è una parola chiave di oggi che è il numero 19, più tardi vi spiego il perché domani 19 si gioca la finale di Champions di cui si parlava, e perché il 19 di giugno accadrà qualcosa, ma ve lo dico più tardi. Andrei invece a raccontarvi una storia che è tratta dal libro credo più bello che ho letto quest'anno, nel 2012, e che ha a che fare con la finale di cui vi parlavo prima, quella che io ho visto da bambino nel campo sportivo, che era la finale finale Juve-Liverpool all'Eisel. È tratto da questo libro che si chiama Riportando tutto a casa, è scritto da Nicola La Gioia e racconta proprio del momento in cui Bruno Pizzul si accorge che sta succedendo qualcosa che proprio non va. C'ho accanto a me il responsabile della UEFA che mi conferma, che ci sono 36 morti, mentre un'altra notizia che mi lascia piuttosto sconcertato è che la partita si giocherà. Una notizia che mi lascia piuttosto sconcertato è che la partita si giocherà lo stesso. La voce di un vecchio padre di famiglia che mette un passo nel futuro e ne rimane annichilito. Vi ripeto, disse cercando di seppellire l'umiliazione nello spirito di servizio, vi ripeto che cercherò di commentare nel modo più impersonale e asettico possibile. Così le squadre scesero in campo sotto il cielo di Bruxelles. Scirea passò la palla a Boniek e il problema di 50 milioni di italiani non fu più trovare nuovi insulti per definire gli hooligan, la città di Liverpool e tutta la genia dei sassoni, bensì decidere se tifare o meno. Non sapevamo che la televisione tedesca aveva interrotto il collegamento. Non sapevamo che la rete nazionale austriaca aveva deciso di trasmettere la partita senza audio. Sugli schermi di Vienna e Salisburgo le immagini dei calciatori danzavano nel vuoto, mentre una scritta scorreva ossessivamente da sinistra verso destra. «Quello che stiamo trasmettendo non è una manifestazione sportiva», diceva. Seguimmo la partita senza sapere che cosa stessimo guardando. Era la morte ed era un gioco. Ed era in qualche modo uno show televisivo. Fino a quando, all'inizio del secondo tempo, il re del calcio europeo vide Boniek a 50 metri di distanza e lo lanciò. Il polacco sgusciò tra due casacche rosse, accelerò e fu atterrato a mezzo metro dall'area avversaria, costringendo l'arbitro a fischiare un rigore inesistente che il sangue e l'atmosfera allucinata resero subito legittimo. E quando il re, lo stesso Platini, trasformò il calcio di rigore, palla sinistra, tuffo di Gröbelaar sul lato opposto, e Bruno Pizzul disse «gol» con una voce sotterrata, quasi non udibile, fu allora che successe l'incredibile. Michel Platini iniziò a esultare come forse non aveva mai fatto in vita sua. La telecamera lo seguì mentre correva verso la linea di fondo e strinse i suoi occhi scintillanti, il pugno chiuso, alzato verso il cielo e la faccia. Un sorriso impazzito di gioia, che era uno schiaffo ai morti, ai vivi, ai sopravvissuti, agli stessi hooligan, ma non alla somma di tutto questo. La prima notte in cui la morte e lo spettacolo salirono i gradini di una scala planetaria, tenendosi per mano. Crack open the good times, on a street corner busting rhymes, but you fell between the lines. They all laugh, become a joke. I'm a crazy baby, let's all hope. For narrow halls, crunching drums, I've got a sweet sugar, but that's all. Vi ricordate l'evento finale dal vivo, il live dello scorso anno di Io Sono Qui, che era esattamente il 21 di giugno del 2011? Bene, lo replichiamo anche quest'anno, lo replichiamo vuol dire che lo rifacciamo, faremo una cosa diversa ovviamente, perché l'anno scorso il protagonista era la storia del sottoscritto, quest'anno le protagoniste sono le vostre storie. Lunedì vi spiegheremo meglio che cosa accade, ci sarà probabilmente una sorta di concorso per scegliere le migliori, le scegliete voi, io le leggo insieme alle persone che le hanno scritte, ma segnatevi la data è martedì 19 giugno, il live di Voi Siete Qui, non in diretta perché non andrà in onda, insomma probabilmente lo registreremo. È per questo che vi chiediamo di venire, l'evento come al solito è gratuito, dalla Sala Collina di Radio 24, via Monterosa 91. Per il momento segnatevi solo la data, è tra un mese esatto ed è martedì 19 giugno, se avete voglia di venire, altrimenti no. Banalmente, vi dicevo appunto la parola chiave è 19 per quel motivo lì, perché domani è il 19, perché il 19 giugno è tra un mese. C'era un altro motivo, però io me le devo segnare le cose, perché c'era un altro, ho detto perché la parola chiave, perché c'è un altro 19, ma non mi viene in mente. Qualcuno mi chiede da dove è tratto il brano che vi ho letto, ripeto è tratto da un libro di Nicola La Gioia che si chiama Riportando tutto a casa, è in Audi, è un libro, è un gran bel libro. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina e al suo live blogging su Twitter, e grazie a Paolino Corleoni. La storia di oggi era la storia di Luca e parlava di grandi finali, quella di lunedì è la storia di Alessandro e parla di come le storie si modifichino da sole. Guardi signora, basta che metta la macchina col muso là davanti e poi faccia un pezzetto in retromarcia. Forza, le dico io come fare. Il treno arrivò un paio di minuti dopo, fischiando selvaggiamente all'indirizzo dell'auto fuori posto, ma passando minimo 2 metri distante dalla macchina. Non dissi più nulla alla signora. Mi affrettai ad attraversare anche l'altra barriera. Non so perché, ma ebbi fretta di sparire da quella scena. Forse, semplicemente, avevo fretta.